detto prima che il metamodello 2 mette in crisi i presupposti basilari del nostro linguaggio, la distinzione tra soggetto, tra colui che compie l'azione e colui che la riceve, tra attivo e passivo, tra una persona e un'altra. Nel metamodello 2 non dico più io ho fatto qualcosa di male a mio padre. Nel metamodello 2 io partecipo alla danza del far male. E se io partecipo a questa danza, il primo a ricevere male sono proprio io. Guardiamo qual è l'effetto sui problemi. Quando parliamo di un problema, normalmente utilizziamo è il mio problema, è la mia difficoltà, è il mio dolore. Va bene. Con il metamodello 2 noi ci abituiamo a togliere l'aggettivo possessivo che presuppone un soggetto separato. Non parliamo più di la mia paura, ma parliamo della paura. C'è la paura, c'è la danza della paura a cui io partecipo. La danza è un flusso circolare che se io conosco e che io vedo nelle sue linee, immediatamente sono in grado di disidentificarmi. Così come se do un calcio contro il muro, imparo, perché lo distingo bene, che mi sono fatto male non per qualche data sfortuna, ma perché ho proprio tirato un calcio contro un muro, contro una cosa che è dura. Così se partecipo a una danza distruttiva è naturale che io provi sofferenza. Allora, mentre nel mondo fisico impariamo presto a non mettere le mani sulla stufa calda, a non buttarci giù dalle scale, a non prendere a testate uno spigolo, perché abbiamo un immediato riscontro, abbiamo un immediato feedback correttivo. Nel mondo più sottile della psiche, questo riscontro non siamo abituati a riceverlo immediatamente perché non abbiamo attenzione alle qualità delle relazioni. Se fossimo attenti alle qualità delle relazioni, questo feedback sarebbe altrettanto immediato che nel mondo fisico, perché quando io faccio qualcosa, una danza distruttiva, non solo io sto peggio e me ne posso accorgere, ma anche tu stai peggio. Cioè, se io immetto la danza distruttiva in questa stanza, ne soffriamo tutti. Naturalmente, tu puoi imparare a allontanarti perché desideri per non disperdere il seme, cioè mettere le tue energie in danze costruttive. Ma subito, immediatamente, tu puoi accorgerti. Da che cosa? Dalle sensazioni del corpo. Ecco perché il linguaggio dei sentimenti, il linguaggio quindi che ci riporta a riprendere i sensi, come dice il buddismo, a ritornare al corpo, è veramente fondamentale. Ritornare alla materia per andare verso lo spirito, davvero. La materia è mater di ogni cosa. Se noi vediamo la materia come staccata dallo spirito, ecco che abbiamo creato una scissione. Ecco un esempio di scissione, di separazione che il linguaggio corrente ci porta a fare. Materia è spirito, ragione, emozione, dare e ricevere, padre e figlio. Tutte cose separate. Nel metamodello 2 impariamo a riunire ciò che è stato separato. Possiamo operare delle distinzioni, possiamo discernere, ad esempio in una danza distruttiva io posso fare il ruolo della vittima, tu fare il ruolo del persecutore, ma la danza è una, è un processo che non riguarda solo noi due, riguarda tanti esseri umani in qualunque momento che vogliono partecipare a questa danza. Così come una sonata di Haydn o una sonata di Beethoven non appartiene a nessuno, chiunque quando vuole, se ha le competenze, può suonare quella determinata composizione. Nello stesso modo che un musicista può scegliere la composizione che desidera suonare, così possiamo scegliere le danze a cui vogliamo partecipare. C'è un'unica difficoltà che dobbiamo discernere. Ecco, discernere quali sono le danze costruttive e le danze distruttive. Possiamo imparare a discernere solo se ci liberiamo la mente dai paraocchi creati dal linguaggio violento e cominciamo a toglierci questi paraocchi per vedere le cose che sono veramente essenziali, come dicevo prima, cioè i flussi circolari, le qualità delle relazioni, i sentimenti. Sono questi che ci indicano se ci troviamo dentro una danza distruttiva o una danza costruttiva, cioè se stiamo facendo il bene o stiamo facendo il male. Non il bene nostro, mio personale, ma il bene, perché il mio bene è il bene di tutti, così come il bene di tutti e anche il mio. Usciti da una logica dualistica, il mio, il tuo, non hanno più veramente senso.